No, ti vedo io. Sei cotto nel nido. Ti vedo io. No, ti vedo io. Ti vedo io. Ti vedo io. Sei cotto nel nido. Ti vedo io. No, no, ti vedo io. Ti vedo io. Sei cotto nel nido. Ti vedo io. Ti vedo io. Mi senti? Ti hanno cucinato nel nido. Chi c'è qua? Avanti. Sei casa tua, tu. Buonasera. Buonasera. Dite se pettenendi due. Mi stai pettenendo. No, che sono. Ho fatto un gatto questa frequenza. Passi in FM. Ya. Yeah. Vive di casero, compreso. Come ti mettendo tu in questa parte di sicuro? Santiago 7, Stadio Kimber, va bene, dai. Compreso. Ehi, come a canare, mi è entrato come, quindi va a canare come. Io era un giorno senza sentirti. Io sono sempre occupato, mi fa dei titoli del lavoro. Ancora tu. Gappa. No, devo dire dicendo che a me il presidente Lincoln non piace molto come radio, l'ho vista com'è ma non capito, mi piace più l'altro modello, come cazzo si chiama, va nominamento. L'altro modello? È un altro, l'altro modello della President, adesso non mi viene come si chiama. Il JFK, il grande, il presidente grande. No, come quello che c'ha a coso, quello che c'ha a Sabino, che cos'è Luca? Quello che sto mangiando, se non mi posso rispondere, fammi finire di mangiare e poi ti rispondo. Ma io sia Jackson, boh, non me lo ricordo adesso. Ma guarda che Lincoln è uno dei migliori come apparato, io mi ci trovo molto bene. È un mini AF dove ti diverti benissimo. Non mi piace molto. Ah, per il superstar mi piace moltissimo invece. È molto bello. Non c'è problema, Vito. Non c'è problema, aspetta che c'è qualcuno che vuole qualche controllo, avanti. Ti fuscio. Giovanni Osso. Ciao Giovanni, buonasera, avanti. Torcello. Provala. 1, 2, 3, 1, 2, 3. S8, V5 qua in via Tango. Ok. No, va bene, c'è tutto bene. Come ascoltili? Bene, bene. Vai benissimo Giovanni, è nitido, bello, pulito, capito? Non è un'emissione stratosferica, però si fa sentire bene. Ma voglio tenere in guardia. No, io sono qua vicino a Skrejčok. No, già arrivo. Va bene, dai, io vado a cenare, buon appetito a tutti. Ciao Luca, buon appetito a te che stai mangiando la pizza. Sentiamo magari più tardi. Bye bye. Ciao Giovanni, grazie. Giovanni Nogiordo, sì. Giovanni Rappioli. E mi cominciamo a mangiare la pizza, Giovanni. Va bene. Già va bene. Dice Giovanni no... Billon Caruda. Come? Sì, Giovanni no Billon Caruda. Giovanni Albu. A me scoppi. Da te scoppio già. Meglio così, ma che so. Sempre poco giù, però ti preoccupare, non è per tua bocca. Vabbè, questa è la faglietta che abbiamo 23 in macchina. Giusto così per vedere chi c'era, sono qua fermo a Piazza dei Cigni. Fatto bene, il fresco potete prendere, no? Così, sto prendendo il fresco, sono da solo, sto fumando una sigaretta e poi me ne rientro a casa. Ma non me lo potevi dire? Ma si sta adesso, proprio 5 minuti fa, vi ho sentito, sono entrato così. Giusto per salutarsi, niente particolare, oramai la radio è passata in secondo ordine, me la fotte più un cazzo. Cappa, ma sinceramente dico una cosa, che si stanno un pochettino girando le libri. Tanto non so niente io colpe ne ho ben poche. Quelle che ho, mi ho preso le colpe, me le ho prese, le altre si arrangiano. No, tutte queste cose, quelle colpe, non è che mi piaccia molto la situazione. Due mafuttitini perché nessuno ha colpa di niente. Ognuno fa la sua parte e basta, secondo il mio punto di vista, dobbiamo fregarcene. Io vabbè, infatti me la sto fregando, me la frega più niente, facciamo quello che vogliono, io tanto vi ascolto sempre, quindi non ci sono problemi, o in macchina o a casa io ci sono sempre, anche se non parlo, non mi interessa. Vabbè, e questo ne sono contento che tu ci sei sempre. però l'altro giorno, te lo devo dire sinceramente, l'altro giorno ci siamo un pochettino arrabbiato troppo, non era il caso, dai. E poi bastava di tirare su di uno e tutto si era risolto, era un pezzo di scatto lì, solito di zona, e non c'era bisogno di avvirarsi così, dai. Non mi dà fastidio, capito? Ma la gente sta parlando e ti disturba, non mi dà fastidio. Io non mi sono mai nascosto dietro il microfono, perciò non me ne sono portato nessuno. Quando ho dovuto chiarire, ho chiarito. E quando ho dovuto dare due calci in culo a qualcuno, glielo ho dati. Senza nascondermi dietro il microfono. Purtroppo ci sono normalmente queste cose, allora a me non mi interessa, capito? Oggi mi ho finito tutte le antenne, ho direttiva, ho tirato su quella delle V e delle U, cavi nuovi, tutto. Ho speso capitale, mi ho sistemato tutte le antenne che mi interessavano, la manto mai staccata, non me la futti nuda. Vabbè, l'altro giorno non c'era proprio il caso di prendersela, ma proprio zero però, tutta la sorpresa. Ci penserai che no, non c'entrava niente da voi, Garuzzai, ma proprio tu e io non c'entrava proprio niente, era solo imbecillotto e basta, bastava scalare, cosa ne so, a posto di fare il 40, bastava fare il 41 e tutto si era risolto, lui ce n'è andato a cagare, perché era uno scemotto di zona, non è che era chissà che disturbava. Solo che qualcuno ha perso la pazienza e cosa, e cioè era un discorso che non ci doveva manco essere. Ho fatto anche una cazzata io a non dire subito, io che ce l'andiamo a un altro canale. Magari tutto quel discorso non c'era stato, capito? Io ho capito altro, però te ripeto. Io mi sono stufato di dare consigli e di dare l'esempio alla gente, capito? Sono stato accusato, criticato, quindi basta, mi sono stufato, adesso quando ne ho voglia, ce l'ho in macchina, esco in macchina, quando ne ho voglia ascolto, quando no, non me ne ho fottuto. Ce ne ho altre cose da fare, la radio oramai per me si arrangiano, facciano il cazzo che vogliono, non me ne ho fottuto. Eppure a me già me ne hanno detto delle belle, l'ho saputo, ma a me continua a non fregarmene niente, perché io sono a posto nella mia coscienza, pure gli altri non me ne ha fatti nulla. Io certe cose non le ho fatte e non mi interessa di farle, chi le fa sono peggio per lui e non me ne ha fatti nulla. Io sono a postissimo nella mia coscienza e l'ho saputo, l'ho saputo, ma non me ne ha fatti nulla. Beh, a certa gente me l'ho guardata da testa e piede, era giudicata come che si mangia proprio un bucarotto. Per non avere capisco che poi i problemi diventano più grossi, no? Perciò va bene così. No, sto benissimo, sono tranquillo, sono sempre là lì, Antonio, non ci sono problemi. Io vedi, sono sempre, c'ero tutta la sera, vabbè, ero un'altra male, però io vabbè, poi quando ne voglia essere in macchina, già mi ascolto. Vabbè, Antonio, ti saluto che ho fatto un paio di amici qua e scendo a prendermi una bibita fresca, semmai se ci si entro può salutarti. Ciao Antonio, saluta Pedro. Ma dai, stai tranquillo, dai, che non succede niente. Che io quando ti vedo così non mi fa piacere. Non mi fa piacere, guarda. Ok. Dai, dai, tranquillo, dai. Ciao, ciao, ci risentiamo. Ciao Antonio, ciao, ciao.